teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon è rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 2 ottobre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Cari ascoltatori, questa settimana abbiamo recuperato un argomento particolare. In realtà tutti gli argomenti di Cacciafotone sono particolari, ma questo è particolare veramente. In realtà parleremo di scienza, ma ne parleremo attraverso un taglio un po' particolare. Il taglio che gli diamo questa settimana è trattando di fisica statistica, applicando la fisica statistica al linguaggio. E ne parleremo con Andrea Baronchelli del Dipartimento di Fisica e Ingegneria Nucleare presso l'Università Politecnica di Catalogna a Barcellona per un articolo uscito qualche giorno fa su Archive in cui si parla fondamentalmente del naming game. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Andrea, in tutta la puntata cercheremo di parlare del naming game, cercheremo di spiegarlo e cercheremo di capire come hai applicato il naming game al feedback e al broadcasting. Ne parleremo meglio nel corso della trasmissione, però Andrea, se dovessi spiegare che cos'è il naming game, giusto per introdurre la trasmissione con le 100 parole iniziali, come lo spiegheresti? Allora, il naming game è un modello che, come una popolazione di individui, di agenti, possa raggiungere l'accordo su una convenzione linguistica senza però che ci sia un organismo centrale o un dio che gli imponga la convenzione, ma bensì attraverso interazioni locali tra coppie di individui. Appunto, l'esempio tipico è spam. Tutti sappiamo che cos'è spam. In questo momento i nostri ascoltatori stanno pensando come noi a una mail contenente pubblicità. Però la cosa non è affatto ovvia e 20 anni fa nessuno avrebbe saputo dare questa definizione, non esisteva neanche il fenomeno. Dopodiché, attraverso interazioni su blog, parlando tra la gente, giornali e vincendo la concorrenza di altri sinonimi, per esempio junk mail, spam è diventata universalmente accettata per indicare la mail non desiderata. Il naming game studia questo tipo di dinamiche. Si chiede quali sono le regole minime che gli agenti devono adottare perché alla fine raggiungano un accordo su una parola, per esempio spam, per designare un determinato fenomeno, per esempio la mail indesiderata. Andrea, innanzitutto a questo punto grazie per la sintesi. Ci andiamo ad ascoltare prima un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione parleremo di che cos'è il naming game, cercheremo di capire a che cosa si applica soprattutto e a che cosa l'avete applicato nel passato, e nella seconda parte della trasmissione cercheremo di spiegare il naming game come è stato utilizzato per cercare di capire il feedback e il broadcasting. Prima però ci hai fornito sul tavolo un piatto succulento, ci hai parlato dello spam e ci hai detto che in un pezzo dei Monty Python si citava appunto la parola spam. Ora, come potevamo noi non recuperare quel pezzo di Monty Python? A questo punto ci andiamo ad ascoltare quel pezzo di Monty Python e poi torniamo in studio. A dopo. Morning. Morning. What you got then? Well, there's egg and bacon, egg and spam. Egg, bacon and spam. Egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, spam, spam, egg and spam. And it was anything without spam in it. There was a time when I used to find fun and joy in every tries. When I was younger, I thought that the people knew that nothing has price, that nothing has price. But all is clear. Now I can conceal that years have gone down on me. Down sometimes can mess. Most of the time we miss the scent of our oldest dreams. Of our oldest dreams. Don't you remember, deep inside your mind, the things you've never lived before? E un benvenuto di nuovo sulle frequenze di Cacciafotone per tutti coloro che ci ascoltano o in radio tramite Radio Città Fujiko o direttamente in podcasting dal sito www.cacciafotone.it. In questa puntata ci stiamo occupando di linguaggio, di linguistica, diciamo così. Forse proprio di linguaggio e di linguistica non ce ne stiamo occupando, ma ci stiamo occupando sicuramente di fisica statistica e di come la fisica statistica riesce ad analizzare il linguaggio. Lo stiamo facendo insieme al dottor Andrea Baronchelli del Dipartimento di Fisica e Ingegneria Nucleare presso l'Università Politecnica di Catalogna a Barcellona. Ecco Andrea, nella prima parte della trasmissione abbiamo promesso ai nostri radioascoltatori che gli avremmo spiegato che cos'è il naming game. Ecco, nelle 100 parole tu un po' l'hai spiegato, più o meno Cacciafotone funziona così. Nella prima parte della trasmissione cerchiamo di definire i confini all'interno del quale ci muoviamo, mentre nella seconda parte della trasmissione andiamo a esplorare meglio l'argomento. Quindi Andrea, tornando a noi, il naming game come nasce, quando nasce e soprattutto perché nasce? Dunque, il naming game ha ormai una quindicina d'anni e nasce per descrivere degli esperimenti che venivano condotti appunto negli anni 90 presso il laboratorio Sony di Parigi. Ai laboratori Sony di Parigi facevano questi esperimenti, mettevano due robot davanti a un ambiente che poteva essere una lavagna con delle forme, e lasciavano che questi due robot comunicassero, e lo scopo dell'esperimento era vedere quali erano i meccanismi che permettessero a questi robot di dare il nome agli oggetti che vedevano, quindi come Adamo ed Eva, dovevano battezzare gli oggetti. Ora, l'esperimento era molto complesso dal punto di vista robotico, però questo in questo momento ci interessa di meno, mentre dal punto di vista delle regole che questi robot dovevano seguire era piuttosto semplice. I robot interagivano in coppia, c'era uno speaker cosiddetto, ovvero uno dei due parlava e l'altro leader ascoltava. Lo speaker diceva una parola, per esempio Pippo, non so, Wabaku, una parola che non esiste, e leader aveva il compito di ricevere questa parola e sperabilmente sapere identificare un oggetto tra quelli che aveva davanti che si chiamava effettivamente con questo nome. Ovviamente all'inizio è un disastro, perché se io dico Wabaku nessuno sa che cos'è, però questi robot avevano la possibilità poi di, dopo l'interazione, di continuare il gioco tramite la comunicazione non verbale, seguendo uno schema che addirittura Wittgenstein negli anni 50 aveva così descritto. E quindi lo speaker poteva indicare l'oggetto al quale si riferiva con quella parola. E a questo punto i due tenevano in considerazione come era andato il gioco. Quindi all'inizio ovviamente era un fallimento e l'Irer si sarebbe ricordato qual era il nome, qual era l'oggetto associato a quella parola. Dopo un po' invece ancora l'Irer avrebbe potuto chiedere semplicemente informazioni, ma poteva anche indovinare, e quindi entrambi avrebbero rafforzato l'associazione tra quel nome e quell'oggetto. Ecco, da quello che ci stai dicendo, quindi il naming game in queste strutture viene utilizzato per capire come alcune parole vengono scelte in luogo di altre per definire alcuni concetti. ma questo effettivamente dipende solo dal metodo utilizzato, quindi dal naming game, oppure anche dal tipo di parola e dal suono che ha quella particolare parola per definire un particolare concetto? No, a questo livello le parole venivano scelte in maniera casuale e non c'era una dinamica di quel tipo. Anzi, devo dire che probabilmente all'inizio ci fu anche un certo sforzo per far sì che questo non dipendesse dalla particolare parola, perché si voleva proprio studiare una dinamica neutra, diciamo, quindi dove la fonetica o la facilità mnemonica che noi umani abbiamo in qualche modo non entrasse in gioco, per non mettere troppi parametri dentro il modello. Quindi, se potessimo semplificare, tutto avviene perché siamo in una rete dove ci sono due soggetti in gioco, uno speaker e un hearer, e questi due soggetti in gioco fondamentalmente utilizzano un metodo standard che possiamo definire come il naming game. Esattamente, questo è esattamente il punto, perché ovviamente se fossero solamente due agenti in gioco sarebbe banale, uno dice vabbè questo è Wabaku, l'altro lo prende nota. Il fatto è che però c'è una popolazione in una rete che può essere complessa o molto semplice all'inizio, e quindi quello che succede è che quando una nuova coppia di giocatori interagirà, entrambi avranno memoria della loro precedente interazione, ma probabilmente tra di loro all'inizio non si capiranno, e però uno trasmetterà all'altro una parola che aveva ricevuto precedentemente da un terzo agente che adesso starà interagendo con un quarto e così via. Questo tipo di dinamica portava all'emergere di vari sinonimi che competevano, e poi a un certo punto uno di questi riusciva a prendere il sopravvento e a diventare quello accettato da tutta la popolazione. E questo era esattamente il fenomeno che si voleva studiare dal punto di vista, insomma, di sociolinguistica, se vogliamo. Andrea, il naming game non l'hai utilizzato solamente ora in questo lavoro uscito su Archive, un lavoro di cui, come abbiamo promesso, andremo a parlare nella seconda parte della missione, ma l'hai utilizzato anche nel passato. L'hai utilizzato nel passato studiando insieme al tuo gruppo, composto da Andrea Puglisi, Vittorio Loreto e appunto tu, Andrea Barunchelli, per studiare le categorie linguistiche e i nomi che definiscono i colori nel 2008 e nel 2009. Ora, in questi due lavori, il naming game cambia come approccio o cambiano solamente alcuni parametri per studiare i fenomeni applicati al naming game? Ecco, esattamente, questi due articoli che abbiamo fatto nel 2008 e nel 2010 sui colori o sulle categorie linguistiche, in effetti rappresentano un salto di qualità, nel senso il naming game, così chiamato, è proprio quello di dare il nome a un oggetto, quindi è semplicemente un nome e non c'entra, e l'oggetto è chiaramente identificato da chi parla. Per i colori il problema è più complesso, perché quando noi diciamo blu, noi in realtà diamo lo stesso nome a una serie di oggetti, se vogliamo di frequenze fisiche, che però chiamiamo tutte con la stessa parola, con la stessa etichetta linguistica, a beneficio della comprensione. Tant'è che abbiamo battezzato questi modelli categorie. Ora però quello che succede è che dal punto di vista poi tecnico, questi modelli sono realmente costruiti a partire dal naming game, quindi sì, definitivamente si possono vedere come un naming game numero due, la vendetta, se vogliamo, più complessi. Senti, prima di fuggire a Barcellona e andare a lavorare presso il Dipartimento di Fisica Nucleare a Barcellona, appunto, tu lavoravi a Roma presso l'Istituto Nazionale di Fisica della Materia. Ecco, come ci diventa un fisico della materia, un fisico statistico che studia le categorie linguistiche, i nomi che si danno ai colori, e poi vedremo l'utilizzo del naming game per studiare concetti come il feedback e il broadcasting? Ci si diventa così perché all'inizio del mio dottorato, fatto a Roma appunto, col professor Loreto e il professor Pietro Nero, incontrai Luke Stills, che è il direttore della Sony di Parigi, che è dove si facevano gli esperimenti con i robottini che dicevamo prima. Poi aveva una domanda che a noi suonava molto interessante, che era, vabbè, noi adesso facciamo questi esperimenti con 5 o 6 robot e vediamo che la cosa funziona. Però ci chiediamo sempre cosa succederebbe se ne avessimo 1 milione di questi robot. Ovviamente dal punto di vista robotico non è fattibile, perché 1 milione richiederebbe un investimento pazzesco. Però voi che siete bravi con i modelli, ci disse, magari avete una risposta. Ed in effetti questa domanda, ovvero cosa succede se io controllo molto bene l'interazione tra due individui, ma poi ne metto insieme un milione, questa domanda è una domanda che ha un fisico statistico, o della materia, è una domanda molto familiare, perché la fisica statistica nacque ormai 150 anni fa proprio per rispondere a questa domanda. Cioè, io ho due molecole e poi voglio descrivere un gas in quel caso. In questo caso noi vogliamo descrivere una popolazione con un grande numero di agenti. E quindi così ci si diventa, per caso, per aver incontrato per caso una persona che si occupava di questi problemi e perché questa persona aveva una domanda formulata in termini molto comprensibili e anche attraenti per noi. A me piacque subito e quindi poi ci feci il dottorato e poi adesso continuo su questa linea. Senti, per andare a vedere un altro aspetto, forse un pochino più storico, ma è quello che mi interessa chiederti adesso, il Naming Game studia non solo il modo con cui oggi viene scelto un termine in luogo di un altro per descrivere un certo concetto, ma forse il Naming Game descrive anche come nel passato alcuni termini hanno vinto in luogo di altri per descrivere alcuni concetti, alcuni colori, alcune tematiche, eccetera. Sì, e in qualche maniera questo è molto vicino anche a modelli che studiano proprio l'evoluzione del linguaggio. Ora, ovviamente questo è un approccio di sistemi complessi, se vogliamo, cioè una possibile maniera di procedere è questa, dire, vabbè, allora facciamo così, supponiamo, facciamo l'ipotesi che all'inizio sia nato, o all'inizio valga la pena di studiare come si dà il nome a un oggetto, appunto il naming game. Quando abbiamo questo, vedremo come funzionano le categorie linguistiche, ed è quello che dicevamo prima con i colori. Una volta che avremo sistemato le categorie linguistiche, andremo a vedere come possa emergere, non so, la sintassi. Quindi è un approccio, se vogliamo, appunto tipico della scienza dei sistemi complessi, ovvero quello di vedere problemi uno incastonato nell'altro, anche al tema dell'evoluzione del linguaggio, senza dubbio. Andrea, a questo punto abbiamo capito che di cose da dire veramente ce ne sarebbero tante, forse infinite. Ci fermiamo per un attimo qui, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torniamo in studio andremo ad analizzare espressamente il tuo paper uscito qualche giorno fa su Archive, in cui si utilizza il naming game per concetti come il broadcasting e il feedback, che è qualcosa che ci interessa molto visto che in teoria stiamo facendo un broadcast. A dopo. Call. E bentornati cari red ascoltatori all'ascolto di Caccia Fotone. Per tutti coloro che stanno ascoltando tramite la radio www.radiocittafugico.it, oppure per tutti coloro che la stanno ascoltando tramite il podcast di Caccia Fotone, che è www.cacciafotone.it. Ora, nel corso di tutta la trasmissione abbiamo provato a parlare del naming game e lo stiamo facendo insieme al dottor Andrea Baronchelli del Dipartimento di Fisica e Ingegneria Nucleare presso l'Università Politecnica di Catalogna a Barcellona. Ora, col dottor Andrea Baronchelli abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione di che cos'è il naming game, a che cosa si può applicare. Abbiamo analizzato anche un pochino la storia di come ci è arrivato il dottor Baronchelli a studiare questi approcci statistici, ma nella seconda parte abbiamo promesso che avremmo parlato del suo articolo, un articolo uscito il 24 settembre 2010 su Archive. Ora, in questo articolo apparso su Archive si analizza il ruolo del naming game quando va ad analizzare concetti come il feedback e il broadcasting. Ora, Andrea, se dovessi spiegare il contenuto di questo articolo, come lo spiegheresti? Dunque, questo parte in realtà da una curiosità. Avevamo questo modello del naming game e spesso si impara molto modificando un pochino le regole o l'algoritmo che definiscono il modello stesso. Allora, nel naming game, come dicevo prima, però in questo è che è un modello schematico ancora più fortemente, la cosa funziona così. La popolazione guarda tutta un solo oggetto. Quindi pensiamo al fenomeno delle mail indesiderate. Tutti abbiamo presente la mail indesiderata. A questo punto gli agenti interagiscono in coppie, uno dice una parola e nella formulazione originaria ci sono due possibilità. L'altro, quello che ascolta, o non conosce questa parola e allora il gioco è l'interazione è fallimentare, però dopo l'interazione se la ricorderà, oppure effettivamente la conosce e allora che succede? Se la conosce, comunica il fatto che lui la conosce a chi l'ha trasmessa, allo speaker, ed entrambi i giocatori dicono: ah, perfetto, allora io mi dimentico tutti gli altri sinonimi e resto felice con questa sola parola. Ovviamente poi in interazioni successive potranno essere esposte ad altre parole, ricordarle nuovamente, poi in caso di successo liberarsene. Però c'è un punto centrale, c'è questo feedback, cioè l'hearer, in caso di successo, comunica questo successo allo speaker ed entrambi buttano via tutte queste parole. Allora, l'idea dell'articolo è vedere qual è il ruolo di questo feedback, cioè è veramente necessario che l'hearer lo comunichi allo speaker? E in caso di che questa comunicazione avviene, è veramente necessario che entrambi i giocatori buttino via tutte le loro parole? Allora, quello che ho trovato in questo articolo, è che in realtà aggiorni il suo stato dopo che lo speaker ha parlato, è necessario. Se questo non avviene, tutto va in malora. La popolazione non converge più, ci sono fenomeni drammatici a livello globale che uno può motivare matematicamente. Viceversa, se invece l'hearer, dopo aver aggiornato, non comunica lo stato di successo allo speaker, beh, in questo caso non cambia praticamente niente. Cioè, tutto va come se questo feedback esistesse. Quindi, almeno a livello del modello, questo feedback non è necessario. Per le grandezze che possono interessare in questo momento, che ne so, il consenso è raggiunto in un tempo che è del tutto comparabile a quello che si osserva quando questo feedback esiste. La memoria non viene alterata, nessun agente è costretto a ricordare più parole in media di quelle che deve ricordare. E quindi il risultato è che questo feedback non è cruciale. Ma questo apre le porte a un'interessante intuizione che può avere anche importanti risvolti pratici, ossia ci può essere broadcasting. Che voglio dire con questo? Non più necessariamente lo speaker e l'hearer devono essere in coppia, ma bensì lo speaker, magari messo in una rete, può parlare contemporaneamente a tanti ascoltatori, a tanti hearer, esattamente come con la radio, e dopodiché gli hearer potranno modificare i loro stati interni in base alla comunicazione che ricevono, senza alcun bisogno di comunicare a loro volta con lo speaker i loro cambiamenti. È una comunicazione unidirezionale. Questo è importante perché il broadcasting non è solo il caso della radio, ma è rilevante anche per una serie di applicazioni. Per esempio, i sensori wireless, per loro natura, comunicano con tutti gli altri sensori che sono all'interno di una, di un cerchio con una data, con un dato raggio. E quindi questo risultato, l'aver mostrato che il naming game funziona anche in questo caso, allo stesso tempo mostra che il naming game può essere usato come modello, magari ultra semplificato, però istruttivo, anche per studiare dinamiche di broadcasting di questo tipo. E questo è in sostanza il contenuto dell'articolo. Andrea, a questo punto provo a fare un attimo un riassunto di quello che hai detto e poi provo a farti qualche domanda, ne ho veramente tante. Allora, voi nel vostro studio avete sdoppiato i due soggetti, cioè gli hearer, quelli che ascoltano passivamente, e gli speaker, quelli che parlano passivamente. Nel lavoro avete dimostrato che qualche volta, in alcuni casi, il feedback, quindi quella comunicazione che c'è fra hearer e speaker, sembra non essere fondamentale. I due soggetti però, speaker e hearer, devono essere comunque in una rete. E il metodo utilizzato per la comprensione delle parole, dei concetti comunicati, è comunque quello che si chiama il naming game. Giusto o sbagliato? No, questo è giusto, anche se nel modello, immaginiamo gli agenti messi tutti su una rete, i ruoli non sono fissati, nel senso che lo speaker viene estratto all'inizio di un'interazione, e dopodiché però ciascuno di questi vicini, e questo è effettivamente un po' diverso dal caso radiofonico e più simile al caso, se vogliamo, dei sensori wireless, potrà essere in seguito a sua volta estratto per giocare lui come speaker, e quindi così si propagheranno le parole nella rete. Ovviamente non è detto che l'hearer a sua volta propaghi necessariamente l'ultima parola che ha sentito dallo speaker precedente, perché magari prima era stato esposto da un altro suo vicino a un'altra parola e propagherà quella. Un po' quello che succede effettivamente con Facebook. Su Facebook io sono esposto a tutti i messaggi dei miei amici, o su Twitter, che fanno broadcasting a tutti i loro amici, e poi di tanto in tanto io stesso faccio broadcasting a loro. E io rielaborerò quello che in questo caso può essere chiamato un meme e lo passerò a tutti i miei vicini a mia volta. Quindi la dinamica è così. Sono hearer magari la maggior parte delle volte, ma di tanto in tanto sono io stesso speaker. E ogni volta che però questo succede, io faccio un broadcasting e passo a tutti. Quindi il concetto fondamentale è che, anche se le due reti degli speaker e degli hearer sono studiate in maniera singolare e in teoria non comunicano, possono anche non comunicare attraverso il feedback, tutte e due devono fare parte di una rete più grande e quindi in qualche modo devono essere interconnesse. Sì, esattamente. E tra l'altro la rete che li collega, la natura della rete che li collega può effettivamente influenzare l'efficienza della comunicazione. Per esempio, reti molto eterogenee, che sono, guarda caso, proprio come sono quelle sociali, ovvero reti in cui, immaginiamoci, pochi individui sono cosiddetti hub, connessi a moltissimi altri individui, i quali a loro volta invece magari hanno un numero di amicizie molto più limitato, sono reti più efficienti per la propagazione, per l'emergenza di un consenso globale. Più efficienti intendo dire in particolare che, per esempio, almeno a livello del modello, questo consenso emerge in meno tempo, è più veloce, è più efficiente, perché una volta, magari succederà raramente, perché l'estrazione di chi fa lo speaker è casuale, ma quelle poche volte che uno di questi nodi super connessi, di questi individui super connessi, gioca come speaker e fa il suo broadcasting, beh, quelle poche volte hanno un ruolo molto forte, perché il numero di altri utenti o individui che sono esposti al suo broadcasting è molto molto alto. Quindi sì, gli individui sono su una rete sociale, una rete tecnologica nel caso wireless, e poi il dettaglio di questa rete è anche un parametro molto importante. Non è un caso, questa è una cosa autobiografica, che io sono qui nel gruppo del professor Romualdo Pastor Satorras e il nostro argomento di ricerca principale è esattamente quella delle reti complesse e della loro struttura, insomma. Tu stai parlando quindi della terza parte del vostro articolo, che si chiama Broadcasting on Network. Sì, esattamente, che mi sembra quella poi con più possibili rilevanze pratiche, se vogliamo. Andrea, che cosa ti ha stupito di più dei risultati di questo lavoro? Te lo aspettavi che il sistema degli hearer e degli speaker lavorassero così? Cioè, fondamentalmente, ti aspettavi che il feedback in fondo non fosse poi così importante per far lavorare il naming game? No, devo dire che non mi aspettavo questa grande differenza tra le due modifiche che ho fatto prima, nel senso che abbiamo nominato, in cui l'hearer semplicemente non dà il suo feedback allo speaker, l'altra è quella in cui dà il suo feedback ma poi lui stesso non fa nessun tipo di update mentre lo fa solo lo speaker. Questo secondo scenario dà invece, appunto, come dicevo prima, luogo a fenomeni catastrofici, se vogliamo, nel senso che il consenso non emerge, le dinamiche sono lentissime, e devo dire non me lo aspettavo. Dopodiché, infatti, ci ho messo un po' di tempo, matematicamente si capisce il perché, però appunto io mi aspettavo di trovare in entrambi i casi una certa, non rilevante, variazione rispetto al caso standard in cui c'è il feedback ed entrambi i giocatori fanno l'update. Invece quello che ho trovato è effettivamente sorprendente, perché in un caso non cambia niente, nell'altro caso tutto cambia moltissimo. Allora, il caso che tutto cambia moltissimo è interessante dal punto di vista così teorico, il caso in cui non cambia niente è forse più interessante dal punto di vista delle applicazioni, per tutto il broadcasting di cui parlavamo prima. Però no, quindi la risposta è no, non me l'aspettavo sinceramente di trovare questo. Senti Andrea, il naming game l'avete utilizzato per i colori, per i nomi di colori, per le categorie linguistiche, per il broadcasting e quindi per il feedback. Per le reti complesse, quale pensi che sia il futuro delle cose, delle reti da studiare attraverso il naming game? Che mi sembra un approccio molto furbo per analizzare le cose. Beh, questo è difficile prevederlo. Dal punto di vista tecnologico non siamo noi effettivamente, probabilmente, che ci occuperemo direttamente dell'applicazione wireless, ma c'è un gruppo in America che ha fatto un paio di articoli in cui diceva che potrebbe essere utile. Un'altra cosa che ultimamente è stata evidenziata da un altro gruppo di ricerca, allora, una comunità in un network, quindi una rete, è intuitivamente una porzione della rete in cui i membri della porzione stessa sono molto connessi tra di loro e abbastanza poco connessi col resto. Allora, l'idea di questi altri gruppi di ricerca, che hanno usato il modello, appunto, che con il professor Loreto avevamo sviluppato nel mio dottorato, loro dicono: ma insomma è interessante, perché se noi guardiamo che per lungo tempo diverse parole sono stabili in diverse parti delle reti, beh, allora possiamo provare a indovinare che quelle sanno diverse comunità. Ed in effetti hanno fatto un articolo recentemente e sembra che dà buoni risultati, quindi questo sembra incoraggiante. E dopodiché noi siamo tutti in dipartimenti di fisica, e quindi quello che ci interessa adesso col broadcasting è aver mostrato di capire gli ingredienti essenziali in una varietà di fenomeni che non ci aspettavamo. Appunto, il broadcasting, quindi il broadcasting anche nei social network, quando c'è della semantica, abbiamo nominato prima Twitter, ora sappiamo che questo potrebbe magari dare qualche chiave di lettura, e l'emergenza di parole come spam può essere usato per studiare fenomeni più complessi come le categorie o il nome dei colori, che è un caso particolare ma molto importante di categorie, e quindi in futuro quello che probabilmente faremo sarà cercare, come abbiamo fatto con i colori, di connettere più l'intuizione così teorica ma un po' astratta a fenomeni reali, in particolare probabilmente adesso con il web. Questo mi sembra che, non so se lo farò io in persona, ma insomma che mi sembra una linea di investigazione interessante. Andrea, concludiamo qui la puntata odierna di The Catch Fotone. Intanto ti ringrazio per aver risposto alle nostre domande, speriamo di aver chiarito un pochino i concetti di questo naming game e soprattutto quali sono le categorie in cui si applica e qual è il risultato del paper uscito su Archive. A questo punto ci salutiamo, ci diamo appuntamento a sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie e ciao Andrea, ciao. Grazie, ciao a voi.